L'eredità della pandemia, forse per capirla meglio, dovremo aspettare quando sarà completamente finita, però quello che stiamo imparando è, per esempio, che le tecnologie, le innovazioni tecnologiche, soprattutto in settori come le biotecnologie che consentono di fabbricare vaccini altamente innovativi, sono uno strumento che noi oggi finalmente abbiamo a disposizione e che ci consente di guardare con una certa fiducia, anche se non sappiamo con quali tempi, nel controllo completo di questo virus. Siamo anche in un momento in cui ci si aspetta che arrivino dei nuovi farmaci per curare i malati. La virologia e l'immunologia stanno acquisendo importantissime conoscenze a livello di base che probabilmente consentiranno sempre più di monitorare e di affrontare i problemi, le minacce dovute alle zoonosi, e anche per quanto riguarda, diciamo, la medicina nel suo insieme, che per certi aspetti non è riuscita a comunicare molto efficacemente e in alcuni casi non è riuscita nemmeno a coordinarsi molto efficacemente, come, diciamo, conseguenza del fatto che sono presenti nella medicina diverse anime metodologiche. Comunque, come sempre, le malattie, diceva un famosissimo pediatra italiano, le malattie sono maestre, cioè le malattie in qualche maniera ci costringono a imparare delle cose. Ecco, quali sono gli appuntamenti di questa giornata? Questa giornata si svolgerà appunto in un'unica giornata. Apriremo con l'intervento di uno dei massimi esperti di virus RNA al mondo, che proverà a farci capire come stanno le cose in questo dibattito circa l'origine naturale o l'origine da laboratorio di questo virus, e lui è sicuramente la persona più adatta, intellettualmente più onesta, per affrontare questo tipo di discorso. Alberto Mantovani è un immunologo di fama internazionale e ci farà sicuramente vedere come diverse ricerche di base o anche applicate nel campo del cancro hanno avuto delle ricadute per quanto riguarda lo sviluppo dei vaccini grazie ai quali oggi riusciamo a tenere sotto controllo la pandemia. Poi avremo un esperto di sanità pubblica inglese che ci descriverà quello che sono stati i problemi e con quale è stato l'approccio in quel paese alla diffusione e all'impatto sanitario del virus. Ci sarà il direttore generale di AIFA, il quale ha scelto di parlare su un problema che effettivamente in questo momento è il problema principale relativamente alle strategie di vaccinazione, che è la comunicazione, cioè che è la questione non tanto del perché delle certe persone non si vaccinano, ma di cosa avremmo dovuto o potremmo fare per convincere almeno una parte significativa di questa popolazione, quelli sicuramente più a rischio, a vaccinarsi. E avremo anche un personaggio che è stato discusso per certi aspetti l'anno scorso, che è John Ioannidis, uno dei massimi epidemiologi clinici al mondo, il quale ha anche sostenuto, ha scritto articoli che sono stati criticati, nei quali ha sostenuto che forse la medicina, i medici, i sistemi sanitari hanno preso delle decisioni senza avere adeguate prove sull'efficacia di queste decisioni. Lui dice: scusate, ma noi sono decenni che diciamo che la medicina si deve basare sulle prove di efficacia, poi non usiamo, diciamo, l'epidemiologia clinica e le prove di efficacia per appunto stabilire se qualche intervento è efficace o meno. E poi ci sono diversi altri interventi, ma penso, insomma, che sia un programma particolarmente ricco e che poi rimarrà come programma, come tematica, come contenuti, perché andrà online, in streaming, e sarà anche poi accessibile in italiano e in inglese. Stamattina il Corriere di Bologna riportava che c'è circa il 14% di persone tra Bologna e la provincia che non sono vaccinati, che non si vaccineranno. Io non lo so, perché i dati sono ballerini e tutte queste indagini, questi sondaggi sociologici, ognuno è fatto col suo metodo, quindi non sono comparabili e francamente io non è che riesca a capire bene. Però, cercando di tirar fuori un po' di elementi significativi dalle quantità di dati che sono stati detti e contraddetti, noi in questo momento abbiamo circa il 5% in questo paese di persone Novax. Quindi non si vaccineranno, è inutile, non lasciamoli perdere, insomma, cioè si ammalino, cioè cerchino di non far ammalare gli altri, sì, e non si vaccineranno. Quell'altro 10% si chiamano esitanti. Gli esitanti sono persone che hanno paura, che non sono sicure, che sentono un amico che gli dice: ma mamma mi ha fatto male, quell'altro che gli dice: io ho fatto la terza dose, è stato terribile, ho sofferto, oppure ma cosa c'è dentro, non so cosa c'è dentro, stanno sui social, su qualche ecco. Allora queste persone purtroppo non si convincono con una comunicazione di massa. Non c'è nulla da fare, serve una comunicazione one to one. Quindi servirebbe per queste persone che i medici di medicina generale, che li hanno come pazienti, come assistiti, in qualche maniera interagissero con loro, oppure che qualcuno o che delle equipe andassero in giro a cercare di interagire, a parlare, perché queste persone hanno bisogno più che di parlare, di essere ascoltate. Qui c'è un clima veramente, io non lo so, questa visione punitiva che c'è verso tante persone. Certo, ci sono personaggi così che sono esaltati, eccetera, ma tanta gente, la maggioranza, non è così. La maggioranza vorrebbe trovare, per esempio, un luogo, delle persone, anche in televisione, che parlasse loro in modo un po' diverso da come gli parlano i medici che vanno ai talk show e si insultano l'un con l'altro. Se noi mandiamo i medici e quell'altro dice una cosa, quell'altro dice un'altra, e poi tutti quelli che si vedono sono deficienti, ma come ti permetti di dire che tutti quelli che si vedono sono deficienti? E quindi, secondo me, servirebbe una comunicazione istituzionale, una comunicazione che fosse messa nelle mani di persone davvero esperte nella comunicazione.